Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. È stato un trucco, disse il farmacista appena vide Léon. Ho voluto interrompere questa visita che mi era parso vi infastidisse. Andiamo da Bridoux a berci un bicchierino di Garus. Homais abbracciò Bridoux, bevvero il Garus. 20 volte Léon tentò di andarsene. L'altro lo tratteneva per un braccio. Gli diceva: «Un attimo, vengo anch'io! Andiamo al fanale di Rouen!» Riuscì in qualche modo a liberarsene. Corse senza riprendere fiato sino all'albergo. Emma non c'era più. Se n'era andata, esasperata. Adesso lo odiava. Quel non tener fede al convegno le pareva un oltraggio irreparabile e cercava altre ragioni ancora per staccarsene. Un uomo incapace d'eroismo, debole, banale, più molle di una donnaccola e per di più avaro, pusillanime. Poi, calmandosi, finì per scoprire che quasi con ogni probabilità lo aveva calunniato. Ma denigrare coloro che amiamo equivale sempre a staccarcene un poco. Non bisogna toccare gli idoli se non si vuole che l'adoratura ci resti sulle mani. Arrivarono a parlare con maggior frequenza di cose indifferenti al loro amore. Nelle lettere che Emma gli inviava c'erano trattazioni sui fiori, sulle poesie, sulla luna, sulle stelle, ingenui espedienti di una passione indebolita che cercava di ravvivarsi con ogni aiuto esterno. Lei si prometteva sempre, per il prossimo viaggio, una profonda felicità. Poi si confessava di non aver sentito nulla di straordinario. Questa delusione si attenuava presto sotto una nuova speranza. Emma ritornava all'amante più ardente, più avida. Lui non aveva il coraggio di farle domande, ma la trovava troppo esperta e si diceva che evidentemente doveva essere passata attraverso tutte le prove della sofferenza e della voluttà. Quanto un tempo l'aveva affascinato, ora lo spaventava un poco. D'altra parte, lui si ribellava contro l'assorbimento, ogni giorno più smodato, della propria personalità. Ne voleva Emma per quell'eterna soggezione. Si sforzava persino di non amarla. Poi assaporava tutta la propria viltà allo scricchiolio dei suoi scarpini, come gli ubriaconi alla vista dell'acquavite. Emma viveva talmente presa dalle proprie ansie che non si preoccupava del denaro, neppure fosse stata un'arciduchessa. Un giorno, però, un uomo dalla misera figura, congestionato e calvo, fece ingresso in casa sua, dichiarandosi inviato dal signor Vinsart di Rouen. Tolse le spille che fermavano la tasca laterale della sua lunga redingote verde, se le appuntò sulla manica, poi con delicatezza tese un foglio. Era una cambiale di 700 franchi a firma di Emma. Nonostante tutte le sue proteste, Lheureux l'aveva girata all'ordine di Vinsart. Trovò Lheureux in bottega. Stava facendo un pacco. «Servo vostro, son subito da voi!» Poi, facendo risuonare gli zoccoli sull'impiantito della bottega, salì precedendo la signora al primo piano. Si sedette nella sua larga poltrona di vimini e disse: «Che novità ci sono?» «Ecco!» E gli porse quel foglio. «Ebbene, cosa posso farci io?» Allora lei si inquietò, ricordandogli la promessa di non mettere in circolazione le cambiali. Lui ammise di aver promesso. «Ma son stato costretto, con il coltello alla gola!» «E cosa succederà adesso?» chiese lei. «Oh, una faccenda molto semplice. Una sentenza del tribunale e poi il sequestro. È tutto finito.» Thank you. Emma si doveva far forza per non mettergli le mani addosso. Gli chiese con la maggior dolcezza possibile se non ci fosse un modo di tener buono il signor Vansar. «Ottima questa, tener buono Vansar! Allora non lo conoscete proprio, è più feroce di un arabo!» Lei piangeva, lo chiamò persino «mio buon signor Leroux», ma lui ripiegava sempre su quel mastino di un Vansar. D'altra parte, assicurava, al momento non disponeva di un centesimo, nessuno lo pagava, gli toglievano il pane di bocca, un povero bottegaio come lui non poteva far prestiti. Lei stava zitta, e Leroux, che mordicchiava la barba di una penna, dovette indubbiamente inquietarsi a quel silenzio. Infatti riprese: «A meno che, se in questi giorni riuscissi a riscuotere qualche credito, potrei...» «Oh, del resto, appena avrò il saldo di Barneville», disse lei. «Come?» Nell'apprendere che Langlois non aveva ancora pagato, lui parve molto sorpreso e disse con voce melliflua: «E allora stabiliamo, secondo voi...» «Oh, quel che volete!» Allora lui chiuse gli occhi per riflettere, scrisse qualche cifra e, dichiarando che ne avrebbe avuto un gran danno, che si cavava letteralmente il sangue per lei, dettò 4 cambiali da 200 franchi a un mese di scadenza l'una dall'altra. Quella sera lei convinse Bovary a scrivere alla madre perché inviasse al più presto la rimanenza dell'eredità. La suocera rispose che non aveva più nulla. A liquidazione chiusa restava loro, oltre Barneville, 600 franchi di rendita che avrebbe rimesso puntualmente. Allora la signora spedì il conto a 2 o 3 clienti e presto usò largamente quel mezzo che risultava efficace. Aveva sempre cura di aggiungere il poscritto: «Vi prego di non parlare a mio marito, sapete bene quanto sia orgoglioso. Scusatemi, la vostra umilissima...» Ci fu qualche protesta, ma lei le intercettò. Per far denaro si mise a vendere vecchi guanti, vecchi cappelli, oggetti in disuso, e mercanteggiava con furore. Il suo sangue di contadina la spingeva verso l'esosità. Con il denaro che ricevette finalmente dalla vendita di Barneville, pagò 2 delle cambiali. Gli altri 1500 franchi sfumarono. Contrasse nuovi debiti e via di questo passo. A volte, è vero, cercava di fare un poco di conti, ma si trovava davanti a tali enormità che non riusciva a crederci. Allora ricominciava da capo, ma faceva presto a impasticciarsi, piantava tutto lì e non ci pensava più. Era così triste la casa ora. Se ne vedevano uscire i fornitori con grinte feroci. C'erano fazzoletti dimenticati sui fornelli. La piccola Berthe, con grande scandalo della signora Homais, portava calze bucate. Se Charles avanzava timidamente qualche osservazione, Emma replicava brutalmente che non era colpa sua. La signora se ne stava in camera, nessuno vi saliva più. Lei vi passava tutta la giornata, intorpidita, discinta. Leggeva sino alla mattina libri stravaganti, in cui si succedevano scene orgiastiche e situazioni cruente. Spesso, assalita dal terrore, lanciava un grido. Allora Charles accorreva. «Ma vattene!» diceva lei. Oppure altre volte, più che mai divorata da quell'intimo fuoco che l'adulterio ravvivava, ansante, commossa, tutta desiderio, spalancava la finestra, aspirava l'aria fredda, scioglieva al vento la capigliatura troppo greve e, guardando alle stelle, bramava l'amore d'un principe. Pensava a lui, a Léon. Avrebbe dato allora tutto per uno solo di quei convegni che la saziavano. Qualcuno aveva inviato alla madre di Léon una lunga lettera anonima per informarla che lui si perdeva con una donna sposata. E la brava signora, intravedendo l'eterno spauracchio delle famiglie, vale a dire la vaga creatura fatale, la sirena, il mostro che abita le fantastiche profondità dell'amore, aveva subito scritto in proposito al principale di Léon, il notaio du Bocage, che si dimostrò perfettamente all'altezza del caso. Intrattenne il dipendente per 3 quarti d'ora, volendo aprirgli gli occhi, additargli l'abisso in cui stava per cadere. Un pasticcio del genere avrebbe nociuto più tardi alla sua posizione. Lo supplicò di troncare quella relazione. Se non per il proprio interesse, facesse il sacrificio per lui, du Bocage. Léon aveva finito per promettere di non rivedere più Emma e si rimproverava di non saper mantenere la parola. L'amante poteva tirare su di lui troppi fastidi ancora, troppe chiacchiere, senza contare le prese in giro dei colleghi quando si riunivano la mattina intorno alla stufa. D'altra parte, stava per diventare primo sostituto. Era il momento di mettere giudizio. E dunque, meglio rinunciare al flauto, ai sentimenti esaltati, all'immaginazione, perché ogni borghese, nell'ardore della giovinezza, fosse pure per un giorno, per un attimo, s'è creduto capace di immense passioni e di straordinarie gesta. Il più incapace dei libertini ha sognato delle sultane. Ogni notaio porta in sé i ruderi d'un poeta. Come s'annoiava adesso quando Emma attaccava di colpo a singhiozzargli sul petto. Il suo cuore, come capita a chi non può sopportare più d'una certa dose di musica, s'assopiva di indifferenza nel trambusto di un amore di cui non distingueva più le delicatezze. Ormai si conoscevan troppo per provare quello stupore del possesso che ne centuplica la gioia. Lei era disgustata di lui quanto lui era stanco di lei. Emma ritrovava nell'adulterio tutte le meschinità del matrimonio. Ma come farla finita? Poi lei aveva un bel sentirsi umiliata dalla bassezza d'un simile piacere. Vi era attaccata per abitudine o per vizio. Anzi, vi s'accaniva sempre più di giorno in giorno, rovinando ogni possibilità di gioia con l'esagerazione del desiderio. Incolpava Léon della delusione delle sue speranze, come se l'avesse tradita. Arrivava ad augurarsi una catastrofe che imponesse il loro distacco, visto che lei non aveva il coraggio di decidere. Questo comunque non le impediva di continuare a scrivergli lettere d'amore, in virtù dell'idea che una vera donna debba sempre scrivere all'amante. Ma scrivendogli, lei pensava a un altro uomo, un fantasma creato dai suoi ricordi più ardenti, dalle sue letture più seducenti, dalle sue brame più violente. Un fantasma che finiva per diventare così vero e tangibile da farla palpitare meravigliata. Lo sentiva tanto vicino, era lì, l'avrebbe rapita tutta in un bacio. E poi, invece, ricadeva a terra, a pezzi. Quegli slanci di amore fantastico la stremavano più di un'esplosione di lussuria. Provava ormai una specie di sfinimento continuo a proposito di tutto. Spesso riceveva intimazioni, carta bollata che guardava appena. Avrebbe voluto smetterla con la vita o dormire sempre. Il giorno di mezza quaresima non tornò a Yonville. La sera andò al ballo in maschera. Indossò pantaloni di velluto e calze rosse. In testa si mise una parrucca con il codino e un tricorno di sbieco. Ballò tutta la notte al suono furioso dei tromboni. Facevano cerchio intorno a lei. E la mattina si trovò nel peristilio del teatro in mezzo a 5 o 6 amici di Léon travestiti da marinai e donne del porto che parlavano di andare a mangiare. I caffè intorno erano pieni. Scoprirono sul porto una trattoria piuttosto modesta, il cui padrone aprì per loro una stanzetta al quarto piano. Gli uomini attaccarono a bisbigliare in un angolo. Senza dubbio si consultavano sui soldi da tirar fuori. C'erano un praticante di notaio, 2 studenti in medicina e un commesso. Che gran compagnia per lei! Quanto alle donne, Emma non impiegò molto tempo a rendersi conto, dal tono delle loro voci, che dovevano essere quasi tutte di infimo rango. Allora se ne andò bruscamente, si liberò del costume, disse a Léon che doveva tornare a casa e finalmente restò sola all'albergo Boulogne. Tutto, persino la propria persona, le riusciva insopportabile. Avrebbe voluto volarsene via come un uccello a ritrovar la giovinezza in qualche luogo remoto, negli spazi immacolati. Appena Emma arrivò a casa, Félicité le mostrò una carta grigia dietro la pendola. Lesse: copia della sentenza esecutiva del giudizio. Che sentenza? La sera prima effettivamente avevano portato un'altra carta di cui non sapeva nulla. Fu dunque più che stupita nel leggere queste parole: intimazione in nome del re, della legge e della giustizia alla signora Bovary. Saltò parecchie righe, arrivò alle parole fatali: entro il termine perentorio di 24 ore. Cosa mai? Pagare la somma totale di 8.000 franchi. E più sotto c'era anche scritto: vi sarà costretta con ogni mezzo di legge, segnatamente con il sequestro di mobili ed effetti personali. Cosa fare? Entro 24 ore. Domani. Leroux, pensò lei, voleva certamente spaventarla ancora. Di colpo comprendeva a che scopo avesse mirato il merciaio con tutte le sue manovre, tutte le sue compiacenze. Gli si presentò con aria disinvolta. «Sapete che cosa mi capita? È uno scherzo, vero?» «No. Come sarebbe a dire?» Lui si girò lentamente, incrociò le braccia. «Cara signora, credevate per caso che sarei restato sino alla fine dei secoli vostro fornitore e banchiere per puro amor di Dio? Bisogna che rientri nelle spese, siamo giusti?» Lei protestò per l'importo del debito. «Oh, peggio per voi! L'ha riconosciuto il tribunale, c'è tanto di sentenza, ve l'hanno notificata. D'altra parte, non sono stato mica io, è stato Vinçart. Ma non potreste?» «Oh, nulla, assolutamente nulla.» Fu stoica il giorno dopo quando l'usciere le si presentò in casa con due testimoni per redigere il verbale del pignoramento. Esaminarono le sue vesti, la biancheria, visitarono lo spogliatoio. La sua esistenza, sino nei recessi più intimi, fu come un cadavere dissezionato davanti agli occhi di quei tre uomini. Se ne andarono alla fine. Félicité rientrò. L'aveva mandata fuori con l'incarico di tener lontano Bovary. In fretta e furia tra tutte e due installarono sotto il tetto il custode del pignoramento, che promise di restarsene buono lassù. Partì per Rouen il giorno dopo, domenica, per andare dai banchieri che conosceva di nome. Ma tutti erano in campagna o in viaggio. Non si scoraggiò ancora. Chiese soldi a quanti riuscì a incontrare, protestando che ne aveva assoluta necessità e che li avrebbe restituiti immancabilmente. Qualcuno le rise in faccia. Nessuno le dette retta. Alle due corse da Léon. «Léon, mi devi aiutare!» Gli stringeva forte le mani, gliele scuoteva, continuò: «O stammi a sentire, ho bisogno di 8.000 franchi. Ma sei impazzita! Ci manca poco!» E furiosamente gli raccontò la storia del pignoramento, gli espose la disperazione della sua situazione. Charles, che ignorava tutto, la suocera che la detestava, papà Rouault che non ci poteva nulla. Le restava soltanto lui, Léon. Lui era di certo capace di mettersi immediatamente alla ricerca di quella somma indispensabile. «Ma come vuoi che io...» «Oh, vigliacco!» gridò. Allora lui disse stupidamente: «Probabilmente tu esageri il danno. Con un migliaio di scudi quell'uomo si calmerà. Ragione di più per tentare di trovarne. Era impossibile che non si riuscisse a far saltar fuori un 3.000 franchi. Del resto, Léon poteva impegnarsi per lei. Va, prova, è necessario, corri! Oh, prova, prova, ti amerò tanto!» Lui uscì, tornò dopo un'ora, le disse solennemente: «Sono stato da tre persone, tutto inutile.» Poi restarono seduti uno davanti all'altro, ai lati del caminetto. Non si muovevano, non fiatavano. Emma scuoteva le spalle, batteva i piedini. Lui la sentì bisbigliare: «Se fossi al posto tuo, saprei trovarne.» «E dove mai?» «Nel tuo studio.» E lo guardò. Un'audacia infernale si sprigionava dalle sue pupille infuocate. Le palpebre le si socchiudevano in modo lascivo e incitante. Il giovane uomo avvertì la propria debolezza smarrirsi sotto la muta volontà di quella donna che gli suggeriva un delitto. Allora ebbe una gran paura e, per evitare qualsiasi spiegazione, si batté la fronte esclamando: «Morel deve arrivare stanotte! Spero che non dirà di no!» Si trattava di un suo amico, figlio di un ricchissimo negoziante. «Domani ti porterò il denaro!» Emma non parve accogliere questa improvvisa speranza con la gioia che lui aveva immaginato. Sospettava forse la menzogna? Léon arrossì e insisté. «Però, se non mi vedrai arrivare alle 3, non aspettarmi più, cara. Devo andare. Scusami. Addio!» Elsa Galbato ha letto Madame Bovary di Gustave Flaubert, riduzione di Chiara Nicoletti, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it